la mia virtude a vacillar comincia, e quevi a questo improvviso dolor, non so, mi sento combattuto il riposo, e saprei dir da che timor non giusto, non ti offuschi sereno. Ora men vado al re, che chieder di me feo poc'anzi, pur vi è più crescime il timore,